Vattene. Hai perso una scommessa? È una scommessa? Ah no, è una penitenza. Insomma, si può sapere che cosa hai perso? Tutto. Hai perso il lavoro. È la crisi. La crisi. La chiamano crisi. È il bilancio in negativo. Sono i conti che non tornano. Beh, ma puoi sempre trovare un altro lavoro. Insomma, si può risolvere qualsiasi cosa, no? Ma c'ero entrato da appena un anno. CocoPro? Progetto. Eri uno stagista? Apprendista? Continuativo? Determinato? Indeterminato? Insomma, dimmi che contratto hai e io ti dirò chi sei. La verità è che il mondo si divide in vincenti e perdenti. E io sono sempre stato dalla parte sbagliata. È sempre stato così, fin da ragazzino. Io non sono mai stato utile per qualcosa o a qualcuno. Lo sai che il consiglio amministrativo dell'American Airlines, togliendo una sola oliva dalle insalate che serve in prima classe, ha risparmiato $40,000 e ha sanato il bilancio? L'ho letto su un'intervista, su una rivista. Ecco, allora io ho fatto la fine dell'oliva. Sei comunista. Sono povero. Allora sei proprio comunista. Io sono soltanto uno sfigato. Ma è la stessa cosa. Dici? Eh sì. Senti, ma io di politica non è che ne so molto, sai? Era così sin dai tempi di liceo. Sin da quando le mie amiche mi chiedevano: ma tu sei di destra o di sinistra? E io rispondevo: io sto dalla parte dei fighi. E quando arrivavano quelli, così belli, con la kefia, la sigaretta in mano, lo sguardo tenebroso, e mi guardavano negli occhi, mi parlavano di politica con tutti questi paroloni, io morivo dentro e sorridevo accondiscendente, ma dentro di me pensavo: ma non mi puoi toccare le tette, baciarmi, chiedermi di che segno sono? No, tu mi parli dei massimi sistemi. Mio nonno ha fatto la guerra, mio padre le lotte sindacali. Io l'unica volta che ho protestato è stata per la rimozione del distributore di bevande. Mi ricordo quando si leggevano i rappresentanti di istituto. La magna aggrimita di tutti questi figoni. È che rallentava la produzione, dicevano. Io ci mettevo 3 ore a prepararmi la mattina, perché volevo essere carina, ma non troppo, perché poi troppo bella faceva figlia di papà e non andava bene. Io dovevo essere militante. E poi un giorno ho pensato: gli piacerebbe candidarmi. Oh, non avrei saputo che cosa dire. Bastardi, un caffè non si nega a nessuno. Perché non è facile parlare di fronte a tanta gente. Neanche un ginseng. Ma tu sei fidanzato? Sì. E da quanto? Senti, non è che mi vada molto di parlare di... Sembra che cosa ho chiesto. È fidanzato o no? Da 6 anni e da 2 conviviamo. E com'è? Convivere. È normale. Ma come normale? Normale non è una risposta. Dai, fai uno sforzo. Che ti devo dire? A volte è bello e altre meno. Ah. No, ma tu sei proprio un oratore. Tu hai proprio l'arte retorica insita in te. Senti, che ti devo dire? Viviamo insieme, condividiamo tutto, mutuo, compreso e... E aspettiamo un bambino. No, un bambino! Ma questa è una notizia meravigliosa! Già. Ma tu non sprizzi di gioia, però. No, è che senza lavoro, senza... Ah, ma la solita lagna! E allora tu non continuare a parlarmi di olive e di stupidaggini varie. Senti, parliamo di cose serie. Come lo chiamerete questo bambino? Renzo, come mio padre. Ma io non ci ho mai pensato di avere un figlio, sai? Però ho pensato che se un giorno avrò un figlio, io voglio che nasca dall'amore. E perché? Da che cosa altro dovrebbe nascere? Ma dove vivi? Ma hai visto questi? Ma secondo te, tutti quelli che si amano qui fanno un figlio? Beh, almeno un po' bene si vorranno. Ah, senti, se ti vuoi bene fai un trekking in montagna, non fai un figlio, questo è chiaro. Ecco. Io voglio un figlio che nasca dall'amore. Una storia come quella delle favole, come quella di Cenerentola. Ma al contrario. Perché iniziano tutte così. Lui ti tratta come una principessa, ti infila la scarpetta e ti porta al ballo di mezzanotte. E poi finisce che ti tratta come se tu fossi la sua sguattera. Anzi, no, la sua e poi anche quella di sua madre. Finisce così. E a mezzanotte sai cosa succede? Che la carrozza diventa un'utilitaria, zero optional, che puoi pagare in 80 comode rate. E poi tutto diventa noia, una monotonia, un'abitudine che se solo poi ci provi a cambiare le cose un attimo. Amore. Per quest'anno ho una bella sorpresa. Che ne dici di una vacanza intelligente? Ah, cos'è? Tu non vieni? Caro, ho un'idea per una serata sorprendente. Va bene, ci vediamo domani, ciao. Che se poi ci provi anche un solo attimo ad entrare nei loro cervelli a vedere come funziona... tesoro, dimmi, tu preferisci una donna bella o una donna intelligente? Ma nessuna delle due. Mi piaci così come sei. Che poi anche loro un po' ci provano. Ma perché hai comprato un reggiseno se non hai niente da metterci dentro? Se per questo anche tu porti le mutande. Meno male che la passione è quella, non muore mai. Amore, dimmi qualcosa di caldo. Datte fuoco. Senti, ma dimmi una cosa. Sì. Ma tu, quando eri ragazzo, no? Che cosa sognavi di fare? Beh, io l'unica cosa che speravo di non fare... era la fine di mio padre. E cioè? E cioè fare tutta la vita lo stesso lavoro. Lavorare così tanto che diventi un tutt'uno con il tuo lavoro. Io non l'ho mai visto ridere. Chi? Mio padre, dico. Non l'ho mai visto ridere. E non ti sto dicendo che non l'ho mai visto contento, perché quello sarebbe stato anche normale. È che proprio non l'ho mai visto sorridere. Anzi no, una volta. E quando? Però non lo so se vale, perché è in fotografia. In una foto che c'ha mia madre sul comodino, ecco, ci sono mio padre e mia madre da giovani, l'estate in cui si sono conosciuti, e stanno in questo Luna Park, sotto quella specie di pungiball che misura la potenza. Ecco, beh, mio padre è lì, sotto questa scritta luminosa che segna il massimo dei punti, abbracciato a mia madre, con le maniche della camicia arrotolate, lo sguardo tutto fiero. Ecco, io quello sguardo a mio padre non gliel'ho mai visto. E lui nella vita di cazzotti ne ha soltanto presi, ma almeno era un incassatore, sempre in piedi, mai un ritardo al lavoro, mai un richiamo, sempre il primo. E per premio si è preso la silicosi. Ma a noi la fabbrica ci dà da mangiare, così diceva sempre lui a casa, ci dà da mangiare. E lo sai cos'è che mi fa più strano, che mi fa più rabbia adesso? Che cosa? Che forse io... sarei addirittura pronto a darmi fuoco pur di avere un lavoro di merda come quello di mio padre. Ma che cosa stai aspettando qui? Io? Mm-hmm. Io non me lo ricordo più. E tu? Ma io non sto aspettando niente. E allora che ci fai qui? Non lo so, non me lo ricordo più. Ma tu dici che se qualcosa di buono passa da qua? Ma secondo me sì. Insomma, prima o poi deve succedere qualcosa, no? E se passa, io almeno voglio essere pronta. Mm-hmm. Ma certo che seppure passasse una buona opportunità da qui, no? Poi ti trova con sta faccia, sto cartello, ma quella come minimo bivia, cioè cambia strada. Ah, quindi tu dici che se una buona occasione non è ancora capitata è per colpa mia? Diciamo che tu proprio non l'hai invogliata fino ad oggi a passare, ecco, mettiamola così. Io mi sono perso. E cosa? No, dico proprio io, mi sono un attimo perso. Ah, ok. Cioè, ma cos'è che stiamo aspettando? Non lo so. Io so soltanto che... Ma non era così che io mi aspettavo di svegliarmi anni fa. Sono stanca, ogni giorno più stanca. Ma non era qui che io speravo di sistemarmi, non adesso, non per sempre. E non era così che io mi immaginavo gli anni 2000, tanti anni fa. Ma che poi... La fantascienza, no? Non è così stupefacente, così fantasiosa. Ragazzi, non era così che dovevano andare le cose per nessuno di noi. Perché non è così che si governa un paese. Non è così che si racconta di politica ai TG. Non è così che si fa cultura. Non dovevano andare così le cose. A dire la verità, si ha sempre torto. E non so se è un proverbio, oppure non so se sia giusto. E io non so se lamentarmi perché non ho un lavoro che mi garantisca niente, o se ringraziare il cielo di non aver trovato un'occupazione fissa che mi dia una stabilità è una marea di frustrazioni. Perché c'è qualcuno che dice che in Italia la rivoluzione non si farà mai, perché alla fine ci conosciamo tutti. Ma io so solo che 4, 5, 6 euro all'ora non può essere ammesso. Un'ora vale più di qualsiasi cosa si faccia, perché in un'ora tutti quegli attimi non te li dai dietro nessuno. Io so solo che in un attimo tutto può accadere, perché se è davvero tutto fermo, tutto immobile, tutto paralizzato, allora che scoppino i bulloni, che si allentino le cinghie, che sparisca tutto, pellicola, negativo, tutto quanto, se devono esserci eroi, ma almeno che siano simpatici. E se ci deve essere letteratura, allora leggiamo tutti di più. E crolli tutto, tutto quello che si regge su uno sputo. E che sparisca il lavoro. Che sparisca il lavoro adesso, per tutti. E che finiscano i soldi e che si torni al baratto. E che, se è vero che stavamo tutti meglio quando non c'era nulla, allora che si torni indietro. Che si facciano cure mediche per un paio di caciocavallo, che si insegni il sapere per il piacere di trasmettere una cultura. Io partirò domani. se il ferroviere non sarà in sciopero, se non sarà licenziato, se non sarà a capo del governo, però giuro che io parto domani e me ne vado, viaggiando di notte tra cerchi di fuoco, perché la mia sarà una danza leggera. E mi guarderà indietro, col sapore della sconfitta immeritata, del torto arbitrale. Io scapperò, però a testa alta, con il coraggio di un disertore. Possono governarci, ispezionarci, spiarci, legiferarci, indottrinarci, catechizzarci. Ad ogni nostro minimo impulso, ad ogni nostro minimo movimento, allora ci potranno censurare, tariffare, timbrare, squadrare, licenziare, raddrizzare. E ancora possono tassarci, taglieggiarci, spremerci, sfruttarci, imporci di lavorare fino a 80, 90, 100 anni. Tanto sicuramente vivremo più di loro, che sono già vecchi e rosi dall'egoismo e dall'ambizione. Questi sceriffi di Nottingham, questi miliardari depressi, preti, che parlano soltanto di soldi. Non hanno futuro, solo un tempo gli appartiene. Questo presente scialbo, avido, come loro, sentinelle ottuse della nozione, schiavi dell'aritmetica, ingobbiti nella loro petulante saccenza, pavidi esattori che si nascondono dietro il pretesto del rigore, della pubblica utilità, saccheggiatori delle più belle speranze, delle più sane aspettative in nome di un ipocrita interesse generale. Avremo figli più sorridenti dei loro, a cui sapremo raccontare favole più sagge e costruttive delle loro leggi. E nel sorriso dei nostri figli, nella pazienza delle nostre mogli, nella generosità dei nostri amici, nella fiducia dei nostri genitori, nonostante la rabbia e la paura, oltre la fatica e l'incertezza a cui vorrebbero inchiodarci, sapremo essere allegri. Sì, perché la nostra allegria non è mai stupida, o comunque è meno vuota della loro serietà. E poi, come dice Prévert, nonostante tutto bisogna tentare di essere felici. Non fosse altro che per dare il buon esempio.